Gazzetta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là di un approfondimento sulla vicenda dell'ospedale di Vicenza, del primario sospeso, la dobbiamo a chi vuole replicare. Oggi ci occuperemo prevalentemente di previsioni dopo le polemiche che abbiamo trattato anche ieri, ma non sono polemiche, è una valutazione vera e propria della Banca d'Italia in primo luogo sull'obiettivo molto ambizioso del governo come PIL all'1%. Ci siamo permessi di far notare ieri che l'OCSE non più tardi di una settimana fa aveva rivisto le previsioni sul 2017 portandole allo 0,8%, quindi come il 2016. Ora, io sono d'accordo con chi dice è inutile scornarsi su decimali dello 0,2-0,1 quando manca ancora tutto un anno, però è anche vero che bisogna stare attenti a cedere in ottimismo. Nel senso che, lo sappiamo, i governi sempre cercano di dare la parte più alta della forchetta, ma in questo caso, viaggiando con un sentiero molto stretto, soprattutto per quello che riguarda il deficit PIL, guardate, è ovvio che nella vita di ognuno di noi, che se cresceremo dello 0,8, dell'1, non cambierà nulla, ma sul fronte dei conti pubblici, quindi di Bruxelles, avendo già chiesto una flessibilità maggiore quest'anno, quindi deficit del 2 più 1,04 di flessibilità, 2,4% di deficit come l'anno scorso e non all'1,8 come promesso. Se per caso dovesse saltare questo rapporto perché il PIL, cioè il denominatore, cresce meno delle attese, non è tanto solo un problema di PIL, è un problema di deficit sul PIL, sballerebbe anche il rapporto. Ecco perché bisogna stare attenti a non dare l'impressione di dipingere troppo roseo uno scenario, e qui lo dico, poi ne parleremo anche nella seconda ora del programma, in cui tra l'altro il governo paradossalmente avrebbe anche gioco facile nel dire che il rallentamento in corso non è in Italia, è in tutta l'area euro ed è anche a livello delle principali economie mondiali, quindi anche da un punto di vista politico non è che gli altri paesi crescano, mantengano le previsioni o le aumentino e noi siamo gli unici a rivedere a ribasso. Tutti le rivedono a ribasso, Francia e Germania. Quindi attenzione anche a eccedere in ottimismo su questo. Oggi comunque il ministro Padoan ha riconfermato le stime, il PIL 2017 all'1%. E ancora dice, da questo punto di vista, l'ufficio che ha trasmesso, l'ufficio parlamentare che deve trasmettere poi i dati a Bruxelles, non aveva a disposizione questi dati, ci sono margini per chiudere il gap tra le previsioni. L'1% è ambizioso ma è realizzabile, la manovra la faremo con cura, non è una scommessa, non do numeri inventati, chiedo un po' di rispetto, non ci sono sovrastime, anzi non ci sono sovrastime, un conto è posizionarsi nella forchetta alta, altra cosa è fare le sovrastime, e poi in una fase di interessi zero e in vicinanza della deflazione facciamo fatica a stimare i moltiplicatori, ci potrebbero essere sorprese positive. Quindi ha difeso, diciamo, su tutta la linea l'ipotesi dell'1%, pur riconoscendo che la ripresa è più lenta di quanto desiderabile. Ripeto, parleremo a lungo di questo nella seconda ora del programma. Nella prima ora invece ci occuperemo sempre di dati e di previsioni, perché c'è anche il Fondo Monetario Internazionale. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha oggi presentato la nuova edizione del World Economic Outlook. Che cosa dice? Sostanzialmente la crescita a livello mondiale è molto precaria, dalla stagnazione economica. Io faccio notare che una volta si diceva che tra lo 0,5 e l'1 non era crescita economica, era stagnazione di fatto. Dopo sopra l'1% c'era crescita vera e propria. Quindi dice il Fondo Monetario che dalla stagnazione c'è un rischio di alimentare i populismi, serve un'azione coordinata e via così. E adesso ne parleremo nella prima parte del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La borsa come va? Più 0,36% oggi Milano, mentre tra i titoli migliori segnaliamo Azimut più 2,30, Pop Milano più 2,20, Unipol più 2,12, Saipem più 1,90, Exor più 1,80, come Ferrari e Yoox Net-a-Porter e anche Ferragamo e Moncler. Chi perde? Snam l'1,35, Terna l'1,30, Monte dei Paschi l'1,15, Buzzi Unicembalo 0,80 come Atlantia. UBI Banca guadagna lo 0,30, parleremo anche di UBI e del suo ruolo nelle quattro banche, quelle salvate e poi trasformate in good bank, perché UBI chiede, è un po' tecnico spiegarlo, un insieme di agevolazioni che valgono circa 400 milioni e alcune garanzie. La Banca Centrale Europea sta alla finestra con aria un po' scettica. Cercheremo di capire dopo l'incontro di ieri qual è la strada che potranno prendere queste quattro banche, fermo restando appunto che l'interesse è in questo momento principalmente quello di UBI Banca. E ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Euro su dollaro oggi sotto quota 1,12 a 1,11,57. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, al di là del Fondo Monetario, di cui parleremo tra poco, sul fronte internazionale oggi la classifica di Forbes 400, quindi 400 uomini più ricchi al mondo, negli Stati Uniti, vede al primo posto restare Bill Gates, che tra l'altro ha spodestato dal punto di vista della classifica. C'è un cambiamento nel ruolo dell'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, che ha spodestato dal secondo posto Warren Buffett, grazie a profitti record di 20 miliardi che hanno innalzato a 67 miliardi il calcolo delle sue ricchezze. Bill Gates resta il più ricco d'America con 81 miliardi di ricchezza, è il 23esimo anno consecutivo che Bill Gates è al primo posto, al terzo appunto Warren Buffett, al quarto sale Mark Zuckerberg 55,5 miliardi e poi Larry Ellison di Oracle, sceso al quinto posto. Allora, due note. La prima è che nei primi cinque posti, quattro sono, diciamo, di società legate alla rete, all'IT, e solo Warren Buffett, che è un finanziere, diciamo, di manifattura, come si diceva una volta, non c'è nulla. Ma la seconda osservazione invece è un po' più preoccupante, perché l'1% degli americani, guardando la classifica di Forbes, si vede che questo 1% degli americani più ricchi è diventato sempre più ricco, con patrimoni complessivi che ammontano a 2.400 miliardi di dollari, una media di 6 miliardi a testa, è record, che vuol dire che anche negli Stati Uniti la ripresa c'è stata. Sicuramente c'è stata in maniera significativa rispetto all'area euro, ma quello che fanno notare alcuni, anche collegandolo poi al ragionamento sulle elezioni americane e sul successo di Trump, è una ricchezza che non si è ridistribuita come avremmo voluto, ma è andata in alcuni casi a incrementare invece la forchetta, la forbice tra gli happy few, come si chiamano negli Stati Uniti, cioè i pochi felici, e i molti invece più infelici, la parte più bassa della forchetta. La soglia per entrare è stata fissata quest'anno a 1,7 miliardi. Va anche detto che ci sono 50 donne in questi 400 super miliardari, e poi 42 super ricchi sono immigrati. Andiamo in Francia, dove l'interventismo dello Stato non ha mai smesso, non è mai cessato, che ne dicano i francesi, anche con alcune distorsioni, a mio avviso, sulla capacità poi che hanno le imprese francesi di competere. Perché lo dico? Perché per salvare il sito, così almeno la cosa è stata letta, il salvare il sito di Belfort, della Alstom, lo Stato francese ha ordinato 15 TGV, 70 milioni di euro. E lo riportano le agenzie, il nesso causale, investimenti per 70 milioni, 6 treni tra l'altro verranno utilizzati sulla linea Milano-Torino-Parigi. Chiaramente molto soddisfatti i vertici di Alstom, perché c'era questo stabilimento produttivo di Belfort per essere precisi, che rischiava chiudere. E tra l'altro l'acquisizione degli ultimi treni, quelli per la linea Milano-Torino-Parigi, si è resa necessaria per applicare le nuove norme che saranno in vigore a partire dal 2021 sulla rete ferroviaria italiana. E la disputa era sul prezzo con cui pagare questi treni. Dopodiché il governo francese ha convinto, diciamo così, le ferrovie dello Stato francese a comprarli a questa cifra. Continua a scivolare la sterlina invece, che ai minimi sia sul dollaro e anche sull'euro, dopo che la premier britannica Theresa May ha confermato di voler avviare la procedura per la Brexit entro fine marzo. La sterlina viene scambiata a 1,27 dollari, non era così bassa nei confronti del dollaro dal 1985, e viene quotata a 86,65 pence sull'euro. Allora, visto che abbiamo una lunga pagina per quello che riguarda la parte sia del Fondo Monetario che delle previsioni del nostro governo e quindi del ministro Padoan, ancora due notizie rapidissime. Per quello mi chiedete anche molto di UbiBanca, ne parleremo, la trattativa prosegue ma i margini sono stretti, questo è quello che è arrivato oggi come indicazione. Mentre sempre sul fronte bancario, ma in questo caso esuberi, visto che molti sono tornati a dire che insomma ci sono più sportelli bancari che pizzerie in Italia, il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, ha detto di ritenere possibili, se necessario, interventi ad hoc per agevolare gli esuberi nel settore bancario tramite anche gli ammortizzatori sociali. E oggi si è parlato di consumi a Milano in occasione del Consumer e Retail Summit organizzato come sempre dal Sole 24 Ore. Tra gli ospiti anche il presidente di Federdistribuzione Giovanni Coboligilli, che al microfono della nostra Francesca Conti ha ricordato la necessità, insomma, che ripartano, è un po' scontato lo ammetto, però che ripartano i consumi in maniera più insistita per rilanciare l'economia. I consumi e i servizi rappresentano il 60% dell'intero PIL, quindi se non si sostengono i consumi non si riprende l'economia e quindi non si riprende neanche il mondo della produzione, che serve evidentemente i consumi. Come? Evidentemente cercando di mettere soldi nelle tasche dei cittadini, particolarmente di quelle categorie sociali che sono disposte a spendere, e rassicurando, e questa è la parte più difficile, i cittadini che in questo momento sono molto preoccupati. Da parte nostra, cioè della grande distribuzione, dobbiamo continuare a fare il mestiere che abbiamo fatto fino adesso, cercando di essere convenienti, di offrire qualità, di offrire occasioni di acquisto e quindi di offrire anche attrattività corretta nei confronti dei nostri clienti. Allora, avete ragione, non ho detto gli altri indici, meglio fa Parigi più 1,10, Francoforte più 1%, Londra più 1,5, Dow Jones meno 0,20. E poi a chi mi chiede, potete parlare di Emiliano e dell'Ilva? Sì, lo faremo domani, adesso oggi non riusciamo a fare tutto. La polemica che insomma rischia di portare a chiusura l'Ilva, però è una polemica che si basa anche su, diciamo, dati sulla salute abbastanza allarmanti, per cui comunque ne parliamo domani, perché il tentativo come sempre è quello di punire chi si è reso responsabile della mancata messa in sicurezza dell'emissione dell'Ilva, ma senza mandare a casa gli operai dipendenti dell'Ilva, quindi aumentando ancora il problema. E ancora mi chiedete del Sole 24 Ore. Sì, oggi c'è stata una dichiarazione la volevo dare davanti ai mercati finanziari, del presidente di Confindustria, quindi del primo azionista del gruppo Sole 24 Ore, mi riferisco a Vincenzo Boccia, che ha detto a margine della visita alla BIMU, all'UCIMU, alla Fiera Europea, il Sole 24 Ore rimarrà in Confindustria, non sarà la mia presidenza a perderlo, stiamo lavorando, è diventata una delle grandi priorità di Confindustria. E poi sempre Boccia ha continuato: a breve incominciamo a mettere giù una lista e faremo un consiglio di amministrazione all'altezza degli obiettivi che abbiamo. E ha anche confermato che riunirà il comitato di presidenza di Confindustria il prossimo 11 ottobre, la sera prima del consiglio generale fissato per la mattina del 12 ottobre. Allora, prima di arrivare all'economia in senso stretto, andiamo sulla vicenda di Vicenza. Che cosa è successo? Nella nostra classifica di venerdì, al quinto posto, se non ricordo male, avevamo messo una vicenda che aveva portato alla sospensione dal lavoro del primario, si chiama Vincenzo Riboni, che aveva una storia di decennale anche di volontario in Africa, insomma. Perché qualcuno forse se la ricorda, Riboni, tornato proprio da una missione in Africa, dove aveva riaperto l'ospedale, se non ricordo male, in Costa d'Avorio, adesso vado a controllare comunque anche questo dato, si accorge che vi sono tutto un insieme di messaggi su WhatsApp, utilizzati secondo lui da una sessantina tra medici e infermieri del San Bortolo, si chiama Gli Amici di Maria, e in cui scherzano e fanno una gara, una sfida, arancioni contro grigi. Il grigio era la cannula per infusione venosa più sottile, l'arancione è quella più grossa, come va, e quindi potenzialmente più dolorosa. Come va la gara? Due arance contro un grigio, infilato un arancio all'ora, e si fa anche il tabellone con il punteggio. Lui torna dalla Sierra Leone, mi correggo, dove aveva riaperto l'ospedale di Nusar, resta basito, avverte la direzione, convoca i protagonisti. I messaggi vengono anche pubblicati dal giornale di Vicenza, denuncia e coinvolgimento, non c'è giustificazione per la superficialità, gli scherzi, le battute e quant'altro. Che cosa succede? Si apre un'inchiesta e alla fine l'unico che paga è lui, è Riboni stesso, sospeso dal ruolo, dello stipendio per 10 giorni. Avevamo tutto il procedimento comunque disciplinare, si risolve contro un infermiere, dove però questa gara viene liquidata come uno sviamento dell'attività istituzionale e un uso improprio del telefono cellulare, che devono essere utilizzati solo per emergenze e non per attività di svago dal contenuto futile. Che sia futile avrei qualche dubbio. Nel frattempo i vari partecipanti della chat vengono uno a uno trasferiti ad altri reparti. Allora, siccome avevamo chiamato in causa anche il NUSIND, che è un sindacato autonomo di infermieri, che aveva difeso spada tratta i suoi associati, immagino, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Andrea Bottega, che è segretario nazionale del NUSIND, appunto sindacato autonomo degli infermieri. Buonasera Bottega. Buonasera dottor Barisoni. Allora, mi dica una cosa, poi mi spiegherà anche, immagino che si trattava di uno scherzo, non era una cosa seria, così, però perché, cioè, secondo lei è corretto che nel momento in cui un primario denuncia questa cosa, e la cosa da qualche parte c'era, perché se c'è anche una procedura contro almeno un infermiere su questi messaggi, non è che possiamo immaginare che si sia inventato tutto il primario, quindi Riboni, perché, voglio dire, le sembra normale che l'unico a essere sospeso sia il primario? Sì, sicuramente sì. Non sulla base dell'informazione che avete dato voi e che voi riprendete dall'articolo di Gian Antonio Stella apparso sul Corriere della Sera del 26 settembre. Certo. Noi riprendiamo spesso Stella e Rizzo, l'ho detto molte volte, i nostri gli dobbiamo il copyright. Prego. Vicentino Stella interviene nel Corriere Vicentino della Sera. Vicentino Padovano è uguale. Sì. Beh, in questo caso no, sono compagni di liceo, fatalità con il primario Riboni. E forse già questo è un elemento che fa pensare, visto anche il mi scusi, io sono compagno di liceo di molte persone che non sopporto e che magari, anzi, perfetto. Che vuol dire? Andiamo sui fatti. Allora, i fatti è che il primario è stato sanzionato per 10 giorni, con una sospensione di 10 giorni, a seguito di false dichiarazioni rese durante il procedimento disciplinare, o meglio, il procedimento disciplinare ha avuto avvio proprio da dichiarazioni false. questo si è potuto dimostrare grazie alla registrazione che era stata fatta di quell'incontro. L'attività di carattere sindacale è stata proprio quella di difesa dei dipendenti sulla base di una registrazione effettuata che dimostrava di fatto una discrepanza sostanziale rispetto al verbale che aveva dato avvio al procedimento disciplinare. Quindi questi sono, non sono carnefici, sono vittime di un'azione fatta dal primario basata su dichiarazioni false. Per questo motivo, ai sensi di legge, cioè il decreto legislativo 165, è stato sanzionato con 10 giorni di sospensione, si poteva arrivare fino a 15, secondo la legge. Okay. Quindi ciò che Stella non dice è che il medico non è stato punito perché ha denunciato, ma perché la denuncia fatta era basata su una falsità. Per questo motivo abbiamo anche proceduto a una denuncia per atto in falso pubblico, perché il primario è un pubblico ufficiale, presso la procura di Vicenza. Quindi lui che cosa avrebbe dichiarato di falso? Che queste chat, questo WhatsApp, questo tabellone non c'erano? No, questo c'erano. Ha dato la descrizione dei fatti, ha detto che i dipendenti hanno dichiarato che sì, la gara era stata progettata ed era stata attuata il giorno X, primi di dicembre dello scorso anno. Qual è il motivo per cui oggi ritorniamo a parlare di questa cosa? Visto che i fatti sono di gennaio, riguardavano delle discussioni tra professionisti, o meglio, erano infermieri che si burlavano di alcuni medici, quindi sulle capacità tecniche di effettuare delle prestazioni che una volta erano ad appannaggio dei medici ed ora sono ad appannaggio completamente degli infermieri. C'erano arrivati dei medici giovani e nella discussione c'era: ma tu non sei in grado di fare questo? Invece no, io sono in grado di fare, diceva qualcun altro. E quindi scusi, ma quindi la gara tra aghi arancioni, aghi grigi, quanti ne hai fatti, 2-1, il tabellone con il punteggio, tutto questo non è mai stato scritto? No, è stato scritto, ma è pura fantasia. Questo no, non scusi, lo dice il sindacato. Se è scritto, no, in realtà, abbia pazienza. No, il procuratore della Repubblica di Vicenza ha dichiarato: una cosa è dire e una cosa è il fare. Il dottor Ribori ha dichiarato al TG2 del 29 aprile che, secondo lui, la gara non è mai avvenuta. Allora, mi deve dire perché manda sotto procedimento disciplinare qualcuno dichiarando che questa gara è avvenuta e poi il 29 aprile dichiara alla stampa che secondo lui questa gara non è avvenuta. Mi deve spiegare perché uno dei medici che era in periodo di prova è andato sotto procedimento disciplinare e i primi di giugno viene confermato come aver superato il periodo di prova. Non le sembra che sia un po' schizofrenica la cosa? Quindi lei dice, c'erano i messaggi, se ho ben capito, c'erano i messaggi, però sì, si trattava di battute, di scherzi, non c'è mai stata una vera gara in cui vinceva chi metteva più aghi di un certo tipo rispetto a un aghi di un altro, capito? Bene? Esatto. Ecco, domanda, secondo lei è tutto normale? Nel senso, perché io vedo che un suo infermiere è stato sanzionato perché sviamento dell'attività istituzionale, uso improprio del telefono cellulare. Quindi voi dite, non è i messaggi c'erano, però non c'è mai stata la gara con gli aghi. Domanda, se ci fosse stata la gara, secondo me avremmo avuto anche un elemento penale su questo, perché non è che l'infermiere può fare la gara sul mio corpo, ci siamo Bottega, eh? Lei sta dicendo che hanno scherzato ma non c'era la gara. Allora, a me posso dire una cosa? A me non mi va neanche che scherzino. Allora, 6 delle 8 persone erano a casa, questa era una chat privata tra professionisti. Non c'è nessun ammalato che ha dichiarato di aver subito un trattamento inappropriato, di aver... Ma io come faccio a sapere se lei mi mette la cannula arancione o grigia e stabilire se è inappropriato o appropriato? Bottega! Infatti lei ha dichiarato nella sua trasmissione che mi augura, se vado in sala operatoria, di prendermi l'ago. Me glielo stavo per chiedere, ma lei andrebbe a farsi mettere una cannula da chi, anche solo come scherzo, su WhatsApp dice arancioni contro grigia? Ci andrebbe lei? Io sì. Va bene. Perché ma preferirebbe essere grigio o arancione? Io preferirei essere arancione, cioè più grosso. Bene. Perché se lei avesse io lavoro in chirurgia plastica, se lei probabilmente avesse letto un bellissimo libro che parla delle ustioni, scritto dal professor Barisoni, che è mio padre, quindi magari l'ho sfogliato. Bravo, è perfetto. Capirebbe che è importante avere un adeguato accesso venoso per salvare la vita alle persone. Se va in sala operatoria, io spero che almeno... Quindi meglio sempre arancione? Allora, per le attività importanti va messo un drago più grande. Sì, però mi scusi Bottega, io quello che non capisco, no, tutto giusto, ci mancherebbe, abbiamo un programma che si occupa anche di salute, ma qui non stiamo ragionando se sia meglio la cannula come, diciamo, protocollo, disciplina, se l'evidenza scientifica, se l'ultima pubblicazione di Lancet ci dica che sia meglio la cannula arancione o quella grigia. Stiamo ragionando del fatto se ha un senso che degli infermieri si mettono a usare una chat su WhatsApp privata, ci mancava solo che fosse pubblica, scherzando su questo. Allora la domanda è, dal punto di vista di Riboni, lei ci ha spiegato, dal punto di vista di chi lei difende e rappresenta, è tutto normale secondo lei? Ma guardi che è l'attività comune, se lei becca la è l'attività comune? Mia... Cioè... No, allora, se lei becca la chat della mia famiglia, dove mio figlio mi scrive ho cancellato per sbaglio il file dal tuo computer e io gli rispondo sei un decerebrato, ti ho detto di non toccare il mio computer, quando vengo a casa le prendi, è che mi denuncia al telefono azzurro perché ho menato mio figlio. Allora, tra il dire e il fare ci passa il mare. Ora, qui era semplicemente un discorso all'interno di un particolare contesto dove si diceva ai medici nuovi arrivati, ma voi ci date una mano o non ci date una mano? Siete in grado di darci una mano o di non darci una mano? Cosa ha voluto ripristinare il dottor Riboni con una sanzione disciplinare? Voleva ripristinare la gerarchia. I medici sono al di sopra degli infermieri e che soprattutto gli infermieri non si possono permettere di criticare l'operato dei medici, perché una delle frasi citate è Filippo bocciato, cioè il medico è stato bocciato. Quindi, ci sono citati dei presidi che manco erano presenti nell'ambulatorio dove... Quindi no, ma a me basta, guardi, io ho degli ascoltatori di vario genere, però mediamente li reputo abbastanza intelligenti, per cui a me basta sapere, secondo la sua linea, quindi lei è segretario nazionale del NURSIND, è corretto che, cioè quello che hanno fatto i suoi, immagino, associati o quelli che avete difeso, è assolutamente, rientra così, in uno scherzo, in un gioco, ma non c'è nulla di... Io poi non ho capito... perché li abbiano spostati questi infermieri, io, certo, io. Mi dica. Allora, sono stati no, ma mi risponda alla prima domanda, e quindi è tutto corretto, va bene? Cioè, guardi che a me va bene visto, qualunque risposta, certo, nel senso, allora, è tutto corretto, quindi va bene. Dal punto di vista deontologico, l'ordine professionale ha indagato per 5 mesi, qui si sono espressi i NAS, gli ispettori della regione. No, ma lei, siccome lei mi ha appena, Bottega, lei mi ha appena detto, guardi che queste chat ci sono così... Allora, dobbiamo, io no, lo dico perché così la eliminiamo dalla classifica in generale, cioè se ci fosse un altro caso di chat su WhatsApp in cui si scherza sul paziente e si fa una gara così... No, ci sono pazienti qua. No, non si scherzava sul 2-1, per carità. Dove le infilavano queste cannule? Allora, se si scherza sul paziente, non c'è problema. Mi dica questo, io non ho nessun problema. Mi dica, guardi, sono scherzi, infermieri in allegria, dottori in allegria, va bene così. Ok? È così la linea? Non è proprio così. Allora me la spiega dopo il meteo. Pubblicità. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum. Costruite intorno a te. Focus Economia. I wanna be free. Minuti. Allora, Bottega, se ho ben capito, lei dice la chat tra questi infermieri era una cosa assolutamente privata e mi ha fatto anche l'esempio, ma se io dessi del celebro leso a mio figlio in una chat privata, le faccio notare due cose. A, che suo figlio, se un domani avesse un problema, potrebbe utilizzare questo messaggio per dimostrare che lei ha un atteggiamento nei suoi confronti. B, che qui non stiamo parlando di un rapporto familiare privatistico, stiamo parlando di infermieri che dialogavano con medici e con lì faremo anche il tabellone. C, mi stanno scrivendo molti medici, ne cito uno, mi scrivono psicoterapeuta, quindi se io scrivessi in una chat tra colleghi che ho portato ad un secondo dal suicidio un mio paziente, vediamo chi riesce a fare meglio, prima di salvarlo basta dire che sto scherzando e tutto a posto. Allora, Botte, io non sono qua per difendere Riboni, di cui me ne frega niente, ma che il sindacato dica sono vittime questi qui, non so, mi viene voglia di mettere mano alla pistola, ma almeno dire che fatevi le chat sulle sorelle, sulle amanti, sulle mogli, su chi cavolo volete, ma e sugli amanti, mariti, quello che volete, ma non sui pazienti. Questo lo si può dire ai suoi associati? Assolutamente sì, infatti questa non è una chat sui pazienti, è una chat tra infermieri e medici che parlano tra infermieri e medici. Quando si dice povero dottore oppure dottore bocciato, vabbè, non si fa nessun riferimento ai pazienti, e questo è stato accertato documentalmente su tutti gli accessi di quell'ambulatorio, ed erano gente, il resto persone che erano a casa. Allora, se non se n'è dato a male il medico a cui è stato detto bocciato, se ne deve dare a male il primario? Beh, allora, primario è il dirigente del reparto, non avrà trovato così ortodossa questa chat, no? Le sembra strano? Ma bisognerebbe capire. Botteca, dov'è che lavora lei? Lavoro in chirurgia plastica di questo ospedale di Vicenza, conosco benissimo tutti. Ma se vi siete posti il problema perché non c'è stato un sindacato dei medici che ha preso le difese del primario? Avete visto una dichiarazione di qualche collega? No, ma guardi che noi non stiamo difendendo allora... Riboni, eh? Cioè, a me non è, se lui ha sbagliato nel fare la relazione, la, quelli allora, sono fatti suoi. Io sto solo dicendo, io ho attaccato lei non perché avete attaccato Riboni, io ho attaccato lei perché, come sempre, le dico qual è il punto di vista, sì, qua il sindacato che ha l'obbligo e il dovere deontologico di difendere i suoi associati, ma può anche riconoscere quando qualcosa non va bene. Oppure mi potete, sì, oppure mi potete dire, guardate che noi non siamo contrari, anzi, qualunque chat vogliate fare su WhatsApp, che parli di qualunque cosa, basta che sia tra medici e infermieri, e così va benissimo, no? Nel senso, ci dica così. Non è così, purché non si offendano i pazienti, purché non si divulghino dati sensibili, perché noi abbiamo a che fare con dei pazienti e con dei dati sensibili. Se non, questo non viene intaccato, non viene intaccata la dignità. Possono della scrivere persona, che cavolo vogliono, va bene. Ma scusa, privatamente a casa sua lei potrà scrivere quello che vuole in una chat privata, poi se ne prende la responsabilità di quello che dichiara. Allora quell'ascoltatore. Perché li hanno spostati questi infermieri? Li hanno spostati per evitare ulteriori diciamo attività vessatorie, perché questi erano stati esclusi da alcune attività del pronto soccorso, che è diviso in attività di emergenza, in ambulatoriale, triage e osservazione breve. Non gli erano stati concessi dei corsi di aggiornamento, quindi c'era tutta una situazione particolare, e dopodiché... Però scusi, alcuni chattavano dall'ospedale, perché la sanzione, il procedimento disciplinare è uso improprio del telefono cellulare, due. In costanze, anche quello va bene? Chiedo. No, è stato allora, su una che lì è venuta fuori, è stato accertato che la cosa non è venuta durante l'attività in senso stretto. Cioè, beh, cavolo, a Bottega, mi mancava solo che lo facessero mentre stavano facendo l'operazione. Ma se sei in turno, sei in turno anche quando non operi. Sicuramente. Allora, che cosa vuol dire? Siccome non hai mandato ma lei sta scherzando, cioè, siccome non hai mandato il WhatsApp mentre stavi operando, infilando la canula, ma l'hai mandato un'ora prima, un'ora dopo, non è così grave. Come dicono a Brescia? Che è più facile metterglielo in un posto che metterglielo in vena, a questo punto, perché non voglio essere volgare. Ho capito, la difesa è totale, ne prendiamo atto, come vede, ha avuto... No, la sanzione avete, è stata data, sì, è stato fatto ricorso. Sì, fate ricorso, ma fate ricorso. Allora, comunque, ha avuto 20 minuti per parlare, perché giustamente l'aveva chiamato, ieri non ce l'ho fatta. Quindi la democrazia in questo programma è rispettata, io non ho altro da aggiungere se non ringraziarla, poi gli ascoltatori che sono maggiorenni e vaccinati si faranno un'idea se venire a farsi operare, diciamo, anche in chirurgia plastica, oppure no, oppure sia stato uno scherzo banalissimo su cui si è montato un caso, come dite voi, e l'unico responsabile è il primario, che è stato giustamente quello già sospeso. Ringrazio il segretario nazionale di NURSIN, Sindacato Autonomo degli Infermieri Andrea Bottega, e vado sul traffico. Focus Economia. Chiedo agli ascoltatori adesso basta con gli infermieri di Vicenza, sennò non riesco più a fare la puntata. È chiaro, voglio dire, il mio pensiero mi sembra abbastanza chiaro. Se io venissi beccato ad avere una chat su WhatsApp in cui dico che ho fatto a gara con altri nello sforare i tempi della radio, nel dare notizie pompate apposta, ci sarebbe un provvedimento disciplinare se vengo beccato. Poi è ovvio che la linea, ma una chat privata posso scrivere di tutto, no? Posso, qualunque insulto, offesa, gara deontologicamente indecente. Il problema è che se ti hanno beccato, però era solo uno scherzo. Insomma, la linea è chiara, è solo uno scherzo. Cosa vuoi che sia chattare anche in orario di lavoro su la canula, la dimensione della canula? Però li hanno spostati sti infermieri, sono pure vittime, perché poverini non li facevano neanche lavorare. Ragazzi, c'è il 12% di disoccupazione in questo paese, si possono trovare anche degli infermieri, sindacato permettendo, cioè mai. Ho visto che mi ha cercato l'ufficio stampa della UIL, avremo forse anche un nuovo un capitolo sulla vicenda delle crociere bellissime, però adesso lo rivedremo, non oggi, perché vorrei andare sui temi anche di finanza e banche e poi arrivare alle previsioni economiche. Ripeto, chi mi dice anche lei l'avrà fatto, a parte che non l'ho fatto perché non ho sto vizio di stare sempre sul telefonino a scrivere minchiate, si può dire? Ok, detto questo, se mi avessero beccato come è successo agli infermieri, sarei stato sanzionato a livello disciplinare. È ovvio, perché se scoprono che io scrivo, che sforo i tempi o pompo i dati o dico che apposta per far una gara a chi la spara più grossa, ti prendo e dico bene, non sei più in grado di condurre, ok? Dopodiché, so già la battuta, c'è già chi i dati li pompa abbastanza, non c'è bisogno che lo faccia io, ne parleremo nella seconda ora del programma. Sto scherzando, ministro Padoan, mi raccomando, sto scherzando. Allora, andiamo invece alle quattro banche, che oggi Pindaro è un dilettante rispetto a noi. Le quattro banche cosiddette good bank, sì, good per chi le gestisce, non per il costo che hanno avuto sulla collettività, Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, e l'interessamento di UbiBanca. Era questo l'oggetto principale dell'incontro di ieri al Ministero dell'Economia. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ho capito bene, insomma qui c'è ancora un po' di strada da percorrere, perché Ubi vorrebbe, senza entrare nei tecnicismi, 400 milioni di agevolazione fiscale, chiamiamola così. La BCE storge il naso e anche la bocca. E però noi abbiamo bisogno di dare una soluzione a queste quattro good bank. Marco. Sì, è così, perché queste good banks, come dicevi giustamente, good fino a un certo punto, se è vero che nessuno si strappa le vesti per prendersele, erano finite nel mirino di Ubi che già in passato, insomma negli ultimi mesi, varrà anni, ha guardato prima il Monte dei Paschi, poi Banco Popolare, BPM, insomma sta cercando qualche via per crescere, finché sembrava averla trovata in queste banche, in realtà non quattro ma tre, avrebbe lasciato fuori Ferrara, che pare la peggio messa delle quattro, e se non che quando è andata in BCE a presentare il suo piano, BCE che da due anni ha l'ultima parola su ogni operazione di acquisizione, si è vista bocciare alcune condizioni. In sostanza serve più capitale, o comunque serve denaro fresco e non riconoscimento di alcune voci contabili che di fatto riconoscerebbero il fatto che si va a comprare banche già oggetto di salvataggio, quindi insomma che si va a riconoscere la straordinarietà della situazione. Morale, sembra tutto saltato, e di qui la convocazione ieri da parte del ministro Padoan dei principali banchieri. Perché? Perché non c'è solo la BCE di mezzo, c'è anche la Commissione Europea, che l'anno scorso aveva autorizzato il salvataggio con deroghe agli aiuti di Stato, chiedendo però che venissero, dopo essere state salvate e possedute temporaneamente dalla Banca d'Italia, rimesse sul mercato prima entro fine aprile e poi entro fine settembre. Ora sembra essere stata data una proroga proprio perché c'era l'interesse di Ubi. Adesso che Ubi sembra tirarsi indietro, chi se le prende? Ecco, sì, a parte che un ascoltatore mi dice: guardi che lei le minchiate non le scrive, lei le dice, che è anche peggio. E su questo possiamo essere d'accordo, le dico in onda, ma almeno non le scrivo su WhatsApp, va bene? Tornando invece alle quattro banche, che tempi abbiamo, Marco? Perché lo scetticismo della BCE deriva anche da questo. E sappiamo che non possiamo tenere in ballo questa operazione troppo a lungo. Sì, corretto, c'è stata questa proroga ufficiosa da parte della Commissione Europea, l'unica dichiarazione di un portavoce di venerdì scorso, se ricordo bene, sembra che questa proroga sia di un mese. Ora è difficile che in un mese cambi la situazione, per cui o si forza sulla BCE o si forza sulla Commissione Europea, oppure chissà. In una battuta, o se non lo facciamo anche dopo, BPM e Popolare di Milano e Banco Popolare, perché qua mancano 10 giorni, se non ricordo male, e mi sembrano molto preoccupati tutti. Ho visto oggi una dichiarazione di Castagna, quindi Popolare di Milano, che dice: se restiamo soli siamo scalabili. Ti chiederò dopo il GR24 anche un commento su questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, 18 e 8 minuti, volevo concludere l'approfondimento sul tema bancario con Marco Ferrando. Chiarito che il tempo è poco sulle quattro banche, giustamente gli ascoltatori ci fanno notare anche dei 25 euro di prelievo sui conti correnti, avete ragione, ai correntisti di queste quattro banche, chiesti come prelievo, diciamo, di solidarietà, chiamiamolo così. Che vabbè, sto zitto oggi, dai. Però al di là delle quattro banche del ruolo di UBI, in cui mi sembra che ancora i margini siano sempre più stretti, c'è un'altra fusione che era l'unica fusione che davamo per certa, Popolare di Milano e Banco Popolare. Oggi Castagna dice: attenzione che se non andiamo avanti qua ci scalano, la traduco male e forzando un po' il ragionamento, ma questa è la paura sullo sfondo. Mancano 10 giorni, o no? È così, sabato 15 ottobre ci saranno le due assemblee, a Verona quella del Banco e a Milano quella di BPM. E diciamo che i precedenti assembleari della Popolare di Milano, i tempi di Bonomi e non solo, dimostrano che nulla è scontato nelle assemblee della Milano. C'è una quota di soci non dipendenti che è contro la fusione, ed è proprio la quota di soci che potrà presentarsi con in tasca 10 deleghe, quindi di fatto potrà votare fino a 11 volte. Questo rende nei fatti il risultato aperto. L'intervista a Castagna l'abbiamo fatta noi, sul giornale di oggi ricordava un po' quello che è l'argomentazione. Se ci fondiamo col banco, sappiamo che diventeremo SPA, sappiamo che ci fondiamo, diciamo, a condizioni negoziate, sapendo di essere una bella banca. Nel caso in cui non ci fosse la fusione, comunque dovremmo diventare SPA, perché così vuole la legge entro fine anno. Essendo sul mercato e non avendo azionisti forti che controllano il capitale, ci scalano. Il rischio c'è. No, basta che lo sappiano tutti, poi magari un azionista può dire: preferisco tenermi le azioni di BPM sottoscalata perché crescerà di valore e la vendo, e va bene così. Gli azionisti intesi sia come dipendenti, sia come gli amici, sia come i sindacati, tutto quanto. Allora, grazie intanto a Marco Ferrando. Io do rapidamente la borsa. Oggi vi dovete accontentare di me: più 0,20% Milano, più 1,1% Parigi, più 1% Francoforte, più 1,30% Londra. Giornata priva di grandissimi spunti. Il Dow Jones meno 0,16%, chi va bene? La Pop Milano, appunto, più 2,20%. Hux Net-a-Porter più 2, Exor controllante di Fiat più 2% come Unipol, Moncler più 1,90% come Saipem, Azimut e Ferrari, bene anche il lusso con Ferragamo più 1,60%, il Banco Popolare più 1,5% come Tenaris. Sul fronte opposto Monte dei Paschi perde l'1,36%, Snam l'1,1%, Unicredit l'1%. Su Unicredit pesano anche le valutazioni espresse da Credit Suisse, che torna sul tema dell'aumento di capitale necessario per Unicredit visto il deficit patrimoniale. Per quello che riguarda, mi chiede di Azimut, staccherà un extra dividendo da un euro. Ieri ha annunciato la riorganizzazione aziendale più 1,90%. Il lusso è trainato anche da Louis Vuitton, che ha acquisito Rimanua per 640 milioni di euro e sale del 3%. Leonardo Finmeccanica invece meno 0,80%. Migliori e peggiori, allora Axeleno più 10, Lucisano Media Group più 9,60, Industria Innovazione più 8,30, fronte opposto e Cairo Communication più 7%. Fronte opposto, i peggiori, Boero Bartolomeo meno 9,20, Vita Società Editoriale meno 8,20, Go Internet meno 4,60. Allora, andiamo sul Fondo Monetario Internazionale, che ha diffuso oggi l'outlook confermando quanto ormai stiamo raccontando da settimane, però è importante anche la conferma: crescita del mondo precario, dalla stagnazione c'è un rischio di populismi. Ha lasciato però invariate le previsioni: 3,1% crescita mondiale quest'anno, 3,4% nel 2017. E ha leggermente rialzato la crescita dell'area euro all'1,7%, quest'anno invece confermata al 2%, all'1,7% nel 2016 contro il 2% nel 2015. Frenano gli Stati Uniti, la previsione di crescita per l'anno prossimo però è più debole rispetto a quest'anno. Quest'anno più 1,7%, l'anno prossimo più 1,5%. Alessandro Melli, come sempre, ha seguito il rapporto del Fondo Monetario. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Andiamo sull'Italia, perché poi questo ci traghetterà il tema della risposta di Padoan oggi dopo le osservazioni mosse ieri dalla Banca d'Italia. Quanto cresciamo quest'anno e soprattutto l'anno prossimo? Il Fondo Monetario non è molto lontano dalle valutazioni del governo, che sono state riviste al ribasso la settimana scorsa, sono molto discusse comunque in queste ore. Cioè, il Fondo Monetario, come il governo, vede una crescita 2016 dello 0,8% e vede una crescita 2017 dello 0,9% contro l'1% del governo. Come sappiamo, altri previsori vedono invece una crescita molto più modesta per l'economia italiana, quindi sostanzialmente in linea con le previsioni del governo. L'Italia resta comunque il paese del G7 che cresce meno, escluso il Giappone, e fra i grandi paesi dell'Unione Europea quello che appunto ha la crescita più bassa. Ecco, sì, faccio notare che le previsioni più deboli sono quelle dell'OCSE della settimana scorsa, 0,8%. Il governo ieri, o meglio nel DEF, ha stimato 1%, parlo sempre del PIL italiano nel 2017. Oggi l'FMI si colloca in mezzo. Ripeto, adesso ne ragioneremo, non ci fa né impazzire né emozionare né eccitare questa cosa di decimali 0,8, 0,9, 1%. Nella vita nostra non cambierà nulla. Ormai è certificato che l'anno prossimo, anche se andasse nel migliore dei modi, avremo una crescita modesta e quasi identica a quella di quest'anno, se vogliamo essere proprio concreti. Poi questo cambia invece sulle prospettive di deficit PIL, ma ne parleremo fra un attimo. La disoccupazione invece, ho visto dei dati in miglioramento secondo il Fondo Monetario Internazionale e anche sul deficit italiano. Sì, la disoccupazione resta appare in calo dall'anno scorso a quest'anno e poi ancora l'anno prossimo, resta comunque sopra all'11% anche in questo caso, se si esclude la Spagna, che come sappiamo è un caso a sé, resta molto alta rispetto al resto dell'euro. Quello del deficit non è molto chiaro, perché il Fondo Monetario vede un deficit in calo, però è anche vero che precisa in una nota che si basa comunque sul documento che il governo ha pubblicato ad aprile, quindi non tiene conto delle misure dell'aggiornamento del DEF che sono di questi giorni, per cui queste cifre, diciamo, sui conti pubblici vanno prese un po' con beneficio di inventario, nel senso che il Fondo Monetario stesso ammette che non sono perfettamente aggiornate. Giustamente dicevi tu, invece, siamo comunque in un ambiente di crescita molto modesta, non solo per quello che riguarda l'Italia, ma se vogliamo in genere per i paesi avanzati e anche il mondo, tutto sommato, cresce relativamente poco, e questo tende ad alimentare i populismi, come abbiamo visto, su entrambe le sponde dell'Atlantico. Beh sì, insomma, l'insoddisfazione dell'elettorato, che poi si può tradurre in un voto per movimenti, appunto, che noi chiamiamo genericamente populisti. L'ultima domanda, invece, proprio siccome parliamo di elezioni, ho visto che il Fondo Monetario si tiene molto cauto sull'esito elettorale americano, però dà, non dico per scontata, ma per molto probabile, una stretta monetaria, cioè un aumento dei tassi di interesse della Fed? Sì, dice di aspettarsi che nei prossimi, che la Fed ha fatto bene a non toccare i tassi a settembre, che continua a guardare i dati come li guarda il Fondo Monetario, e dice di aspettarsi però che nei prossimi mesi abbastanza inevitabilmente la Fed farà un altro aumento dei tassi, mentre il Fondo Monetario auspica che la Banca Centrale Europea continui a mantenere un atteggiamento molto molto accomodante, ma come fa anche da tempo Mario Draghi, il presidente della BCE, il fondo chiede che siano le altre politiche ad accompagnare la politica monetaria, quindi politica di bilancio e riforme strutturali. Allora, grazie anche Alessandro Melli. Traffico, e poi andiamo invece sulla risposta di oggi a Padova ai titoli dei giornali e ai dubbi avanzati ieri soprattutto dalla Banca d'Italia su un PIL all'1% particolarmente ambizioso. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina, scusatemi, di Focus Economia sul sito di Radio 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Focus Economia. Lo scenario macroeconomico tendenziale per il biennio 2016-2017 tiene conto in modo prudente del peggioramento del contesto esterno. Sulla base delle informazioni fino ad oggi disponibili, esso appare quindi condivisibile. I dati sui flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche sono fino a questo momento coerenti con la stima di disavanzo del Governo per l'anno in corso. Nello scenario programmatico per il 2017, la dinamica del prodotto è significativamente maggiore di quella del quadro tendenziale. L'obiettivo è ambizioso, la previsione è basata su una composizione della manovra sulla quale la nota non fornisce informazioni di dettaglio. Per conseguire il risultato, la prossima legge di bilancio dovrà essere definita con grande cura. Con riferimento alle misure di sostegno alla crescita, sarebbe opportuno concentrare l'attenzione su quelle che possono favorire una rapida ripresa degli investimenti, sia privati sia pubblici. Per questi ultimi in particolare occorre assicurare non solo lo stanziamento di risorse, ma anche presidi per un efficiente e tempestivo loro utilizzo. Gli effetti recessivi delle necessarie coperture finanziarie potranno essere contenuti se si riusciranno a individuare sprechi da eliminare e a contenere i costi di funzionamento dell'amministrazione. Il governo conferma il suo quadro programmatico per il 17 all'1% e lo conferma sulla base della consapevolezza che questo è il risultato, come ho detto nella mia introduzione, della valutazione degli impatti delle misure comprese nella legge di bilancio sul tasso di crescita. Implicito in quello che sto dicendo è che nel caso dell'UPB e nel caso anche di altri previsori tutte queste informazioni non erano disponibili, e quindi è chiaro che ci sono margini, a mio avviso, per chiudere il gap tra le previsioni. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è quindi atteso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Questa ambizione è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà una spinta alla crescita. Il PIL programmatico non è una scommessa, riflette la valutazione dell'effetto che la manovra produce sul prodotto. Allora, avete sentito nell'ordine i timori della Banca d'Italia ieri nell'intervento in audizione di Signorini, che è vice direttore generale. Obiettivo ambizioso, sarà molto importante, se non vogliamo deprimere l'economia, che le coperture avvengano non attraverso una riduzione degli investimenti, ma attraverso una riduzione e rimodulazione della spesa, e poi che questa rimodulazione abbia effetto subito. E avete sentito Padoan oggi, ministro dell'economia, che conferma le stime all'1% e dice: attenzione, è ambizioso, ma secondo me è realizzabile. E poi dice: per favore, numeri inventati, chiedo un po' di rispetto. E l'ufficio parlamentare che deve trasmettere questi dati a Bruxelles non era ancora aggiornato. Dino Pesole, del Sole 24 Ore, editorialista proprio sui temi della manovra. Buonasera. Buonasera. Voglio essere, cioè, fa l'avvocato del diavolo in questo caso, del ministro. Scrive un ascoltatore: ma insomma, gli anni scorsi, quando noi facevamo scostamenti, penso al governo Berlusconi, di uno, un punto e mezzo di punti, passavamo da ripresa a recessione, nessuno di voi si spaventava più di tanto. Adesso per uno 0,2 state facendo tutta questa confusione. È così, cioè stiamo titolando e facendo tutta questa confusione perché il governo ha scritto 1 invece che 0,8. Ribadisco, nella vita di ognuno di noi non cambierà nulla. E allora? Allora, diciamo sostanzialmente che lo scarto è di 0,4, sia per quanto riguarda quest'anno che per il prossimo. Certo, non sono cifre enormi, il problema però non riguarda tanto le cifre e le percentuali di per sé, ma cosa c'è dietro queste cifre. Allora, il punto di frizione, chiamiamolo così, o comunque di diversità di valutazione che ieri e oggi abbiamo evidenziato in quello che ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia e lo stesso ministro, dipende essenzialmente da un dato: lo scarto tra la previsione di crescita per il prossimo anno a bocce ferme, diciamola così, se non si facesse nulla, 0,6, e quello che prevede il governo, 1, è appunto dello 0,4. Il problema è quello che c'è dietro, vale a dire il governo sostiene che dentro questa maggiore potenziale crescita c'è un elemento che viene ritenuto in qualche modo discutibile, e cioè l'effetto del mancato aumento dell'IVA. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che penderebbe sulle nostre teste l'aumento dell'IVA per effetto delle manovre precedenti che il governo ora neutralizza, non lo fa aumentare. Allora dice il governo: il fatto che io non faccia aumentare l'IVA per 15 miliardi produrrà un effetto sulla crescita dello 0,3%. Allora, su questo punto forse si può un attimo discutere, perché come dire che ognuno di noi vada, che ne so, a fare la spesa e decida di consumare in più nella consapevolezza che non aumenterà l'IVA. Forse è un'aspettativa positiva, non è detto che si trasferisca immediatamente in maggiori consumi. E quindi questo è un po' il senso. Certo, stiamo parlando di percentuali abbastanza limitate, però un conto è lo 0,6, un conto è l'1. Insomma, è vero che si tratta di uno 0,4 minimo di scarto, ma poi su quell'1% o sullo 0,6 vanno tarate tutte le altre variabili, il debito che non sì, allora che no, aspetta, cresce, ti fermo. Tu dici, qui c'è uno scarto tra quello che è l'effetto positivo che il governo ritiene che ci sarà nel non aumentare l'IVA, sì, e perché appunto non faremo scattare le clausole di salvaguardia, e quello che faremmo invece se aumentassimo l'IVA. Tra lo 0,6 il governo dice, siccome non lo aumentiamo, è all'1%. Tu aggiungi anche, attenzione, è tutto a dimostrare che il semplice non aumento dell'IVA, cioè come se dicesse uno, siccome non ti do un pugno, mi amerai. Adesso la traduco male, ma dipende, magari tu non aumenti l'IVA, ma i consumi non ripartono uguale, o magari sappiamo che i consumi ripartono anche su, sicuramente prenderebbero un colpo dall'aumento dell'IVA, non è detto il contrario. E se il cavallo non vuole bere, così faccio contenti i tecnici di Radio 24, anche se non gli aumenti l'IVA, questo non beve. Secondo aspetto che mi sta molto a cuore, questa disputa non è tanto sui decimali, che troverei veramente triste, proprio da pezze, ma su quello che poi sarà l'impatto sul deficit e debito che noi, soprattutto il deficit, abbiamo promesso a Bruxelles, se ho ben capito, Dino. Appunto, infatti era la seconda parte del ragionamento. Se limitiamo la discussione a 1,04, lasciamo perdere subito. Mm-hmm. Però poiché il fatto di crescere o non crescere all'1% determina la possibilità che nel 2017, perché quest'anno il debito addirittura aumenta, cominci a scendere, e qua la cosa diventa un po' più delicata, perché se cresciamo di meno il debito non scende, e se non scende teoricamente potremmo essere passibili di una procedura di infrazione. Allora si dirà, con l'aria che tiene Europa siamo ancora a parlare di procedure di infrazione. Sono assolutamente d'accordo, però al tempo stesso, fino a che le regole ci sono e vanno rispettate, si abbia il coraggio di cambiarle, che francamente non ha molto più senso questo parametro del 60% costruito nel 92 quando c'era un altro mondo. A me, io temo, siccome viaggiamo a vista, diciamo, temo molto di più anche un deficit che, se non è corretta la previsione di crescita e quello che dovrebbe sostenerla soprattutto, sarà più alto inesorabilmente del 2,4 che abbiamo promesso. E a questo punto, ripeto, non potendoci augurare un terremoto e sbarchi e flussi di migranti, avremo un'Europa che sulla manovra dell'anno prossimo ci dice: guarda che avete già sforato il margine che vi avevamo dato per il secondo anno consecutivo. Ecco perché diventano importanti con questa Europa anche i decimali. Grazie a Dino Peso del Sole 24 Ore, da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.